Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuova puntata insieme agli amici dell'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Oggi abbiamo con noi al telefono Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco e un saluto ai radioascoltatori. Allora Gianluca, nell'argomento che trattiamo oggi parliamo di un risarcimento, perché insomma capita nella vita di cadere, anche di inciampare da qualche parte, e però possiamo richiedere un risarcimento danni. Sì Francesco, partiamo proprio da un episodio che diciamo si è concluso in questi giorni molto positivamente. E parliamo, perché poi l'argomento del risarcimento danni in seguito soprattutto a cadute è un argomento molto articolato e che può avere vari risultati, sia positivi che negativi. Mm-hmm. Ora, noi andiamo a raccontare la storia appunto di una pensionata di Spinea, che è in provincia di Venezia, la quale appunto ancora il 23 luglio del 2016 si era recata a fare un po' di spese nell'area commerciale del Marghera, poi ha deciso di farsi una passeggiata, era assieme al figlio, in un'area espositiva e di tende da campeggio, era il 23 luglio, quindi insomma in piena estate, e passeggiando in quest'area espositiva aveva i sandali aperti, i sandali con la parte aperta, la parte davanti, ed è inciampata su un gancio che era infilato per terra, non visibile, in una zona in cui si poteva accedere, quindi non una zona vietata. E la signora è caduta, la pensionata è caduta, si è fatta male al piede, si è ferita al piede e il ginocchio, e dopo è andata a casa, si è fatta un attimo visitare là al momento, si è fatta curare un attimo là al momento, è andata a casa, ha sentito dei forti dolori al braccio, è andata in ospedale, insomma, alla fine l'hanno riscontrata addirittura la frattura del braccio. E a questo punto la signora si è rivolta a noi, e qua è iniziata una difficile, ovviamente, gestione della pratica, perché Francesco, noi sappiamo benissimo, e lo riscontriamo quasi ogni settimana, che chiaramente quando ti confronti con le assicurazioni, ti confronti anche a volte con un muro di gomma, comunque ti confronti con delle realtà che ovviamente pongono molti limiti alla possibilità di rimborso. Lo abbiamo visto in molte occasioni, diciamo che tramite il nostro ufficio legale, che è molto, molto tosto, cioè lotta molto, abbiamo avuto molti risarcimenti, però insomma bisogna sempre presentare molta documentazione, bisogna comunque farsi valere. In questo caso, grazie appunto all'intervento del nostro ufficio legale, abbiamo avuto un bel risarcimento di 6.000 euro, che è un riconoscimento al danno, diciamo, un riconoscimento totale al danno subito dalla donna, che purtroppo dopo questa caduta non riesce neanche più a compiere normalmente le normali faccende quotidiane, e soprattutto non riesce a seguire con la dovuta attenzione la madre molto anziana e malata, e per la quale adesso appunto dovrà utilizzare un aiuto esterno. Questo aiuto esterno sarà facilitato sicuramente da questo rimborso di 6.000 euro che abbiamo ottenuto, ripeto, dopo una lunga mediazione con l'assicurazione, dopo aver presentato una serie di documentazioni richieste. Insomma, è stato un ottimo successo. Questo cosa ci insegna, Francesco? Ci insegna ovviamente che quando subiamo questi tipi di incidenti non dobbiamo demordere, perché molte volte magari proviamo personalmente a inviare una richiesta di risarcimento o di rimborso, ci viene subito negata e lasciamo perdere. E no, in questo caso bisogna veramente rivolgersi nell'ambito dei risarcimenti a esperti in materia, e come appunto in questo caso il nostro sportello di risarcimento danni, perché quando ci si trova a parlare, a discutere, a dialogare con un'assicurazione, come dicevo prima, ci si trova a dialogare con una realtà, insomma, che farà di tutto per o evitare di risarcire o comunque risarcire il meno possibile. Certo. In questo caso, ecco, abbiamo avuto anche la testimonianza degli stessi ragazzi che avevano fatto l'esposizione e che appunto che hanno ammesso, insomma, qualche errore, qualche mancanza, per cui insomma tra le varie cose che abbiamo dimostrato, anche grazie a questa lettera, insomma, siamo riusciti a ricevere un bel risarcimento di 6.000 euro e insomma l'abbiamo accolto con grande soddisfazione, perché non era per nulla scontato. Ecco, la cosa interessante è che non è, a risarcire la signora non è stato il negozio, ma l'assicurazione, che evidentemente il negozio ha. Ecco, appunto, noi stiamo parlando della Decathlon, quindi di un, insomma, di una realtà diffusa e si suppone seria, ovviamente, e quindi insomma era assicurata dall'assicurazione per questi tipi di incidenti. Può succedere che abbiamo veramente casi incredibili che andremo a raccontare prossimamente, che appunto qualcuno ha questa assicurazione non ce l'abbia, per cui alla fin fine non si vada a coprire un danno che invece, se causato appunto in questo caso dal negozio, da chi ha fatto l'esposizione esterna al negozio, insomma deve essere risarcito, deve essere riconosciuto, anche perché qualcuno potrà dire sicuramente che 6.000 euro sono molti soldi, perché bisogna dire che è un bel risarcimento, però se guardiamo il danno subito dalla signora, che è un danno evidentemente anche permanente e non temporaneo, insomma diciamo che il riconoscimento ci sta tutto, anche perché, come dicevamo, probabilmente con questa parte di soldi dovrà utilizzarli per farsi aiutare nell'assistenza dell'anziana madre che non sta bene. Ecco, Francesco, questo mi fa venire in mente anche tante altre storie che abbiamo affrontato e abbiamo parlato anche durante la tua trasmissione. La più clamorosa, quella che ci lascia più perplessi, è quella di un 86enne, l'abbiamo raccontata, che appunto è caduto in autobus a causa della brusca partenza dell'autista. Sì. E devo dire che ancora allo stato attuale non è stato riconosciuto il rimborso da parte della CTD, che è l'azienda di trasporto pubblico di Venezia, e pur con tante testimonianze anche sul fatto che appunto a Venezia, al Lido di Venezia, gli autisti guidino con una certa velocità, eppure non è ancora stata riconosciuta. Questa a dimostrazione anche della differenza che esiste tra gli enti pubblici in questo caso e le realtà private, che evidentemente sono più disponibili anche al dialogo. Noi chiaramente ci auguriamo che anche la vicenda dell'86enne del Lido si concluda positivamente, e ovviamente andremo a raccontarlo quando sarà nella vostra trasmissione. Benissimo, ricordo sempre che c'è un sito da visitare, che è www.associazionedifesaconsumatori.it, dove si trovano notizie e i contatti anche per chiamarvi direttamente. Grazie a Gianluca Codognato, a tra qualche giorno. Grazie a te, Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.